io non appoggio nel suo insieme la classe dirigente. Ho rilevato che, e lo ripeto, per il 90% è una classe dirigente di anime morte. Nel senso che una classe dirigente è totalmente priva di radicamento nei territori e assolutamente incapace di militanza. Sono rilievi che ho fatto, che ripeto e che sarei pronto a fare domani mattina. È assolutamente vitale una battaglia di rinnovamento radicale. Per me il rinnovamento ovviamente non è la carta d'identità, non è il certificato d'anagrafe. Il rinnovamento è rappresentato da queste caratteristiche: essere espressione dei territori, avere capacità di governo e avere capacità di militanza. La gran parte di questo gruppo dirigente è figlio del correntismo e deve essere ampiamente superato. Lei, De Luca, chi voterebbe se Bersani non fosse della partita? Ma non lo so, credo che Renzi abbia un valore positivo, perfino un valore aggiunto in questo momento, ripeto, avendo chiarito cose che non mi convincono in termini... Vabbè, diciamo, non è convinto, ma voterebbe Renzi.